si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Alle 8:35 minuti, una buona giornata appunto da Laura Bettini e da Carlo Gabardini. Buongiorno e buona domenica a tutti. Carlo, io volevo fare una promessa agli ascoltatori, cioè non parleremo di coronavirus, ma temo sia impossibile in una giornata come questa, quindi cercheremo di semmai parlarne ovviamente con strumenti scientifici, ecco, con certa cautela, senza creare panico e ansia, perché ho sentito e ho letto cose terrificanti nelle ultime 24 ore. Sì, è vero. Non contribuiamo all'allarmismo assolutamente, anche perché non siamo degli esperti di virus, quindi Ci affideremo a coloro che lo sono, ma siccome proprio ieri abbiamo parlato, no, di fake news, di falsi allarmi, di mettere la scienza davanti, ecco, sicuramente non vogliamo farci prendere la mano da alcunché, ma restare nei corretti binari della informazione. Detto questo, comunque oggi è giornata di indovinello. Assolutamente sì, non e ci non fermano. È coronavirus, non chiamate, perché quello non è, ve lo dico già. Il personaggio della settimana, che può essere cosa, persona, animale, evento, deve essere della settimana e non è il coronavirus. Ci si prenota per indovinare all'800 24 00 24. Non valgono SMS e WhatsApp. E cos'altro dobbiamo dare? Il primo indizio? Devi dare il primo indizio, assolutamente, e potete già chiamare. Allora, il personaggio della settimana ha fatto una carriera pionieristica. E ho indovinato. E forse l'altra cosa che dobbiamo dire è che cosa si vince se si indovina l'indovinello. Si vincono due biglietti per la mostra di Erwitt al MUDEC di Milano. Molto bene. Allora, cosa ti ha colpito questa settimana? Dai, diamo qualche spunto di intrattenimento oggi, anche, o di riflessione. Sì, oggi guarda, vi parlo di un podcast bellissimo. Lo trovate su Storytel. A me Storytel me l'ha regalato il mio amore, credo per liberarsi delle mie parole per un po', così sto lì con le cuffie in silenzio e non do fastidio, ascolto storie. E comunque, se non siete abbonati a Storytel, lo potete ascoltare gratis nei giorni di prova per decidere se abbonarvi o meno. Parlo della bomba in testa, il terrorismo degli anni 70 spiegato ai millennials. Da un millennial mi viene da aggiungere, perché è il bravissimo Nicolò Porcelluzzi che l'ha scritto, ma soprattutto ha fatto un anno di ricerca sul campo e dunque, per fortuna, è lui in persona che ci parla nel podcast, un giornalista classe 1990. Tutti noi siamo pieni di lacune, dimenticanze sui cosiddetti anni di piombo. Infatti queste sei puntate brevi e di introduzione, ripasso, farebbero bene a chiunque, perché quella storia non è ancora digerita, metabolizzata, veramente conclusa, tanto che nessuno si premura di raccontarla alle generazioni più recenti, e ciò è imperdonabile. Il podcast è uscito il 12 dicembre del 2019, a 50 anni esatti dalla bomba di Piazza Fontana. Forse anche perché un'alta percentuale dei nostri giovani pensa che quella bomba sia stata messa dagli anarchici o dai comunisti, quando non è così e lo sappiamo bene. Porcelluzzi non fa sconti, descrive gli assassini delle BR di prima linea nella loro insensatezza e crudeltà miope, scava nelle contraddizioni della lotta armata, intervista anche alcuni protagonisti pentiti in carcere, parla dei tentativi di riconciliazione coi parenti delle vittime, ma soprattutto fa una cosa, parla ai giovani con la loro lingua e spiegando quelli che è evidente siano interrogativi di tutta la sua classe. Fa una panoramica per capire il contesto e le spinte rivoluzionarie, ma passa anche, non so, per esempio dall'elenco degli oggetti ritrovati nel covo di Aldo Moro, spiega anche il motivo per cui sui muri si scriveva Cossiga con la K, racconta solo con la voce foto storiche dell'epoca che tutti noi ricordiamo, quella famosa Milano con Memeo quasi in ginocchio che spara. È un'introduzione, ovviamente, in poco più di due ore nessuno può pretendere altro, ma fa venire una voglia pazza di studiare, capire, tornare a interrogarsi sul nostro passato recentissimo, che non si può ignorare se si vuole vivere nel presente. Creare un terreno comune di sapere tiene unita la società, la fa progredire, aiuta il dialogo e la convivenza civile. Quindi complimenti a Nicolò Porcelluzzi e a tutti i suoi collaboratori, spero continuino a raccontarci storie. È ovviamente per i giovani, giovanissimi, ma io l'ho ascoltato tutto e l'ho trovato interessantissimo. Grazie Carlo. Tra l'altro, tornando sul tema del terreno comune di sapere, no? ci riporti alla questione del mettere un po' il naso sui libri e studiare. Vero. In questo caso un podcast, almeno ascoltare, no? Ascoltare. Giustissimo. Allora, ho letto dei libri brutti purtroppo in questa settimana, quindi non potevo portare un libro. Poi comunque di questo podcast avrei parlato comunque. No, ma io lo voglio suggerire, ad esempio, alla scuola di mia figlia hanno recentemente parlato della strage di Bologna e quindi direi che, no, potrebbero con i ragazzi ascoltare. Molto, assolutamente. Magari o invitare, trovare qualche spunto, invitare lui, quindi proseguire, diciamo, in questo cammino che hanno fatto loro da un punto di vista delle immagini, quindi con fotografie. Anche quello è stato un bel lavoro che hanno fatto e che trovo sia molto utile da portare appunto nelle scuole superiori italiane. Cambiamo del tutto argomento, parliamo di qualcos'altro che però anche lì è terreno formativo. Ti ho portato un ospite, come sempre faccio a quest'ora della domenica, e la nostra ospite è Simona Landi, che è responsabile del pollaio sociale SICOP. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, voi avete una iniziativa molto, molto bella, molto interessante, che coinvolge ragazzi disabili e che però arriva fino nelle nostre case grazie a questo pollaio sociale, perché uno può contribuire, no, al progetto e ricevere in cambio le uova, giusto? Esattamente così. La formula è proprio quella di poter adottare una gallina e ricevere in cambio le uova, circa 250 uova all'anno. E che poi uno appunto via via prende, ovviamente non tutte insieme, no? Non tutto il primo dell'anno, insomma. No, nel senso che appunto noi abbiamo gli adottanti che si recano da noi una volta alla settimana, ogni 10 giorni, e appunto vengono a ritirare le loro uova fresche delle nostre amate galline. Quindi vengono anche proprio lì e vedono anche come si lavora, cosa succede, no? Sì, esattamente sì. Infatti una delle finalità è proprio quella di creare una relazione sociale, cioè un contatto comunque con le persone. Perché come avete detto voi, il pollaio è custodito, gestito e curato dai nostri ragazzi, che sono ragazzi con una disabilità cognitiva, e quindi l'aspetto di poter incontrare le persone è parte, diciamo, rilevante, parte importantissima di tutto il progetto. È un beneficio certo per chi contribuisce, un beneficio anche per i ragazzi che lavorano nel pollaio sociale, immagino. Assolutamente sì. Allora, per loro la cura comunque del pollaio, ma anche il rapporto, magari farà sorridere, ma con la gallina, che comunque è un animale intelligente, è un modo di sfatiamo, no, un mito. Giustissimo, giustissimo. È bello il rapporto con la gallina, mi piace molto. Assolutamente sì, è un modo comunque di prendersi cura, no? E l'aspetto del prendersi cura è comunque sempre molto importante per quel che riguarda poi, come dire, anche l'autostima dei ragazzi, no? Anche la loro, diciamo, identità. E tra l'altro, appunto, l'ho detto sorridendo, ma con le nostre galline loro comunque hanno un rapporto. La mattina quando arrivano per andare a dargli da mangiare si vedono le galline, in particolare le ovaiole, perché noi abbiamo galline ovaiole, galline livornesi, che arrivano immediatamente di corsa perché comunque conoscono i nostri ragazzi. E quindi sì, no, beh, sicuramente una parte importante viene fatta a volte con le galline, a volte anche con altri animali. Mi ricordo in Toscana dei progetti per accudire, mi pare, gli asini. O... Sì, assolutamente. Assolutamente sì. Adesso diciamo che la pet therapy, se vogliamo generalizzare, si applica a tantissimi animali, chiaramente dal cane, l'animale domestico e l'animale socievole per eccellenza, però ci sono appunto sicuramente delle esperienze anche con altri animali, una di quelli è proprio l'asino che nominavi, e nel nostro caso invece è la gallina. Beh, però c'è anche poi qui l'aspetto del pubblico, no? Che quindi è uno step in più, non è solo pet therapy che rimane tra il ragazzo e l'animale, ma c'è l'apertura verso, no, l'esterno. Allora, infatti, allora, di solito l'aspetto di inclusione quando si ha a che fare, in questo caso con la disabilità, è fondamentale per non creare delle isole felici. Quindi appunto l'aspetto di avere una relazione continuativa in cui poi nasce conoscenza, perché adesso i nostri adottanti conoscono perfettamente per nome i ragazzi, sanno chi gli porta la confezione, sanno non so, chi invece va nei posatoi a prelevare le uova. È assolutamente un aspetto basilare del progetto, tant'è che noi non facciamo spedizioni, per esempio. proprio per questo motivo. Quindi non, noi da Milano non possiamo insomma chiedere di aderire. Beh, anche perché le uova poi da spedire sono tra le cose più complicate, giusto? C'è l'aspetto della complicanza, in quanto l'uovo è ovviamente un oggetto fragile. C'è anche un aspetto, come dicevo prima, sia legato alla socializzazione ma anche di impatto ambientale. Un aspetto del progetto del pollaio sociale è anche quello di cercare di essere ovviamente a chilometro zero, green e a chilometro zero, esattamente. Certo. La spedizione avrebbe un impatto ambientale ovviamente negativo, no? Perché se da Toscanella di Dozza noi siamo, no? Nella via Emilia, sì, tra Imola e Bologna, dovessimo spedirla a Milano piuttosto che, non so, a Bari, è chiaro che le nostre uova da un punto di vista ambientale, certo, non sarebbero un prodotto. Soprattutto se sono spedizioni singole, insomma, perché se uno muove, esatto, una macchina per 6 uova, diciamo che... Esatto, ma noi calcolate che abbiamo 70 galline nel nostro pollaio, esatto, quindi non è che abbiamo... Cioè, infatti il pollaio sociale rientra nei pollai domestici, proprio per la misura del pollaio. Grazie, però, allora, no, però dica, concluda. No, vi volevo dire, però, quando dicevate noi a Milano, un altro aspetto del pollaio è la possibilità di replicarlo in tutte le parti d'Italia, nel senso che noi stiamo collaborando con cooperative, associazioni, enti no profit interessate eventualmente a replicare il progetto, tant'è che adesso a breve, in primavera, ne aprirà sicuramente uno vicino a Rimini, probabilmente uno vicino a Brescia, probabilmente uno a Cesena, quindi l'idea è poi quella di replicare il progetto. Mi sembra quindi molto molto bello. Quindi molto potrebbe essere bel che un giorno ci sia anche a Milano. Magnifico, magnifico. Grazie molte, buon lavoro Simona Landi. Grazie a voi, viabilità. Buona giornata. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ti ricordi, Carlo, quando la settimana scorsa abbiamo parlato di Sky che si impegna a battere tutte le sue emissioni entro il 2030? Avevamo detto, ma ci piacerebbe però sapere un po' come vogliono fare, no? A parte, certo, la questione plastiche, bottigliette e tutto ciò che si fa all'interno degli uffici Sky, come faranno ad esempio sui set. Esattamente, siamo tutti che ci stiamo immaginando tutti gli attori di Gomorra setatissimi e che senza bottigliette d'acqua. Con la borraccia, esatto, ma questo sarebbe facile poi alla fin fine dare la borraccia. Il problema è come rendere tutta la produzione. Bravissima, o uno, certo, studio televisivo a impatto zero. E allora abbiamo deciso di approfondire la questione ed è con noi per parlarne Sara Varetto, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Sara, sappiamo, editorialista, ex direttrice Sky TG24, adesso responsabile di progetti a livello europeo, giornalistico, quindi anche progetti che riguardano tematiche ambientali, no? Ci arriveremo tra poco, però prima, esatto, di tutto dici come fate, cosa succederà ad esempio a X Factor, cosa c'era l'anno scorso che l'anno prossimo non ci sarà più? Ma non andremo tanto a sottrarre, in realtà Sky ha cominciato un viaggio su questo tema molto tempo fa. Noi già dal 2006 abbiamo azzerato le nostre emissioni dirette, cioè quelle che si svolgono, quelle che vengono prodotte dalle nostre attività nei nostri uffici, usando molto l'energia rinnovabile e ovviamente facendo anche, quello che non puoi ridurre e portare a zero, facendo delle compensazioni. Questa quota di compensazione la porteremo anche avanti, ma sarà soprattutto concentrata sul piantare alberi, intervenire nelle foreste pluviali sostenendo alberi, abbiamo già fatto anche in passato in Amazzonia, e poi ancora ovviamente piantando alberi come le mangrovie che hanno grandi capacità di assorbimento della CO2. Poi cercheremo di lavorare sempre limitando molto di più quella che è la nostra impronta anche indiretta. E cosa intendo? E qui vengo proprio alla domanda che ti stavi facendo tu, e cioè quando noi lavoriamo con case di produzione, con nostri partner e fornitori, anche per la realizzazione di grandi serie come per esempio Gomorra o grandi show come X Factor, ecco, la sostenibilità ambientale d'ora in poi sarà al centro anche del dialogo che abbiamo con i nostri fornitori. Quindi ci sarà un impegno comune a stimolare sia il fatto di adottare energie rinnovabili. Agiremo anche per quanto riguarda i nostri fornitori sul territorio, quindi andremo piano piano a dimezzare anche le loro emissioni. Ma lì chiedendoglielo proprio specificamente, cioè se non riesci a fare questo non puoi lavorare con noi da qui al 2030, chiaramente, non domani. Esatto, cioè l'impegno è che in questi 10 anni noi dobbiamo arrivare anche all'azzeramento delle nostre emissioni indirette. Quindi stiamo parlando non soltanto dei nostri fornitori, ma anche dei nostri clienti. Nel senso che noi vogliamo portare ad abbattere... Cioè, quindi i telespettatori? Beh, per esempio, però per quanto riguarda i nostri prodotti stiamo parlando, cioè quando tu utilizzi, per esempio, Sky Q nella tua casa, arriveremo a dimezzare l'impatto energetico anche del nostro prodotto. E quello che non riusciremo ovviamente a... Quindi la lucina che si accende che consumerà meno? Esatto, la lucina che si accende consumerà meno. Lavoreremo proprio a livello di business transformation di quelle che sono proprio le nostre catene di realizzazione anche dei prodotti per abbattere sempre di più. Però sapete, noi abbiamo eliminato dai nostri prodotti tutta la plastica monouso anche dagli imballaggi, l'abbiamo già fatto, perché poi questo obiettivo che ci diamo adesso entro il 2030 in realtà è un pezzo della nostra storia. Cioè quando abbiamo eliminato la plastica l'abbiamo fatto anche perché crediamo fermamente che la salute dei nostri oceani sia una priorità anche per quanto riguarda le emissioni. Cioè non ci dimentichiamo che gli oceani in buona salute sono in grado di assorbire il 40% di quello che noi emettiamo a livello di anidride carbonica nell'atmosfera. Quindi è tutto collegato, è anche collegato rispetto a quello che è il percepito dei nostri clienti. Nel senso che noi, come dire, abbiamo anche una capacità di ascolto che arriva, come dire, bidirezionale. Non siamo soltanto noi che vogliamo usare la nostra voce per portare avanti questi temi, ma anche rispetto ai nostri clienti c'è una maggiore sintonia anche di comunanza valoriale rispetto a questi argomenti che sono diventati argomenti centrali. Certo. E quindi, in realtà, se posso, per quanto riguarda... Niente, ci mancherebbe. Se posso dire, io trovo molto apprezzabile il fatto che sia una visione diversa, è anche il motivo per cui ci piace parlare di questa questione. Un po' forse anche perché voi avete ovviamente una vocazione alla comunicazione, visto che siete Sky, ovviamente. E è molto bello questo fatto di dire: non è che vogliamo semplicemente noi dire abbiamo consumato un po' di bottiglie in meno, ma il fatto di voler convincere le migliaia di aziende che lavorano insieme o per Sky a dire facciamo tutti un passo diverso, tanto che addirittura noi ci mettiamo anche a cercare di convincere i nostri ascoltatori. Quindi è veramente un tenere tutti insieme, e questo ci sembra vincente. Un bel si può fare. Esatto, ma non volevo interromperti ovviamente. No, grazie, mi è piaciuta molto la sintesi che ne hai fatto, perché in realtà è proprio questo, cioè si tratta di avere la convinzione profonda che quello non soltanto è un tema prioritario, ma che possiamo vincere questa che è la madre di tutte le battaglie soltanto se siamo tutti insieme. Cioè quindi se c'è un lavoro sia dal punto di vista appunto della trasformazione del business nostro, dei nostri prodotti, ma anche un lavoro forte rispetto a quelli che sono, perché poi stiamo parlando di un progetto che è a livello europeo, quindi che coinvolgerà 11.000 fornitori che ha Sky in tutta Europa, a sensibilizzare loro, agire anche con i nostri clienti, anche per stimolare dei comportamenti che siano sempre più virtuosi rispetto proprio alla riduzione delle emissioni, perché lasciatemi dire, si può fare anche senza stravolgere la propria vita completamente, si può fare con dei piccoli gesti, con delle attenzioni. Beh, come abbiamo imparato, no, con la raccolta differenziata, insomma 10 anni fa ci sembrava impossibile avere in casa tutti questi bidoni, certo. Adesso ce li abbiamo e ci conviviamo, insomma, si impara. Ed è verissimo anche appunto ricordare che non si tratta di rovinarsi la vita, anzi si tratta di migliorare la vita sul lungo periodo, l'immediato, esatto. Vabbè, si cambiano abitudini. esattamente. Direi cambiano che delle abitudini, quindi anche il fatto che comunque noi siamo un'azienda media che fa comunicazione, aiuta molto, questo ci aiuta molto a poter creare anche consapevolezza, a cercare di condividere tutta una serie di messaggi e anche di suggerire, perché noi poi ovviamente non siamo assolutamente, dobbiamo essere pedagogici, ma suggerire, raccontare quelli che possono essere anche comportamenti diversi, che possono però poi su lungo periodo incidere in modo importante, perché qui stiamo parlando di un viaggio che dura 10 anni, cioè l'obiettivo è arrivare nel 2030 e ci piace parlarne, infatti io vi ringrazio per l'occasione di questa mattina, ci piace parlarne anche perché gli obiettivi che si dà l'Unione Europea sono più proiettati sul 2050, alcune aziende stanno cercando di anticiparne nella consapevolezza che purtroppo il tempo che ci rimane per intervenire e per evitare i danni peggiori, esatto, è poco, e allora cercare anche di avere un effetto positivo anche sulla comunità delle aziende, la business community, cercando anche magari, che ne so, di stimolare magari anche qualche altra azienda a provare certo. a fare meglio. Ci sembra molto giusto, direi che l'ultimo tassello che manca è di portare direttamente, si può fare su Sky in onda, di modo perché che no? Esattamente. Ecco. E va bene, ne riparliamo esatto. durante GR24 magari. Intanto ringraziamo Sara Varetto, grazie, grazie mille, Sara. Buon lavoro, buon proseguimento sul vostro cammino verso emissioni zero 2030, ci rivediamo tra pochissimo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. ...824-0024, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. Carlo, siamo pronti no, per l'indovinello? Assolutamente, chi potete vuole. Già chiamare per indovinare il personaggio della settimana, che è una notizia legata, che è avvenuta in questa settimana. Laura ha già dato il primo indizio, ovvero ha fatto una carriera pionieristica. Diamo anche il secondo, visto che oggi sono un po' pigri, o lo diamo alle magari alle 9.15. Dai. Va benissimo, dopo la viabilità. Me ne incarico. Tocca a te, ricordatene, va bene, perché bene. Se io me ne dimentico tu devi intervenire. E adesso invece, dopo aver parlato tanto di emissioni di CO2 con Sky, cosa faranno, cosa non faranno, andiamo a parlare di un altro argomento che a me è molto caro, che è quello dei viaggi e della preparazione che, dai, è bello fare quando ci si appresta a partire per qualche luogo sconosciuto. Ci domandiamo, per esempio, dove potrei trovare qualche informazione, e lì ci sono le guide, così, ma come potrei magari prepararmi al modo di vivere di una un bel libro, un bel romanzo magari, o un bel romanzo storico. Però insomma, ecco, se uno non sa bene come muoversi, c'è una biblioteca specifica a Napoli, in particolare a Chiaia, la Biblioteca del Viaggiatore. Ne è titolare Luca Ferrari, che è il nostro ospite. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Biblioteca appunto del Viaggiatore, lei è un viaggiatore, no? Perché la sua esperienza lavorativa è legata proprio ai viaggi. Sì, dal lontano 1980. Perché appunto lei è un'agenzia, no? Un organizzatore sì, di sì. viaggi per gli altri e per se stesso, immagino. Esattamente. E nel corso degli anni ha raccolto molti libri. E poi ha deciso di aprire anche questa biblioteca, che è proprio una biblioteca, vero? Non è una libreria dove si compra il libro. No, assolutamente, è una biblioteca, i volumi sono a disposizione di chiunque voglia venire a visitarci, ovviamente, tanto per essere chiari, anche di clienti di altre agenzie, le due attività non sono affatto collegate. Ma anche di chi non ha ancora al momento l'idea chiara di voler fare un viaggio. Ah, cerca l'ispirazione, cerca l'ispirazione. Quindi uno può leggere un libro della biblioteca, poi non è obbligato a fare il biglietto da voi, questo stava dicendo, giusto? Assolutamente no. Ma infatti a noi ci interessa il fatto delle mete di questi viaggi. E come funziona? Uno viene lì e dice vorrei viaggiare in quella zona e voi consigliate un libro, oppure di solito vengono già con le idee chiare e vogliono comprare prendere in prestito quel libro. E l'altra domanda è, il libro poi uno se lo può portare dietro durante il viaggio? Allora, le ipotesi ovviamente sono tante, si può già aver idea di dove si vuole andare, quindi la ricerca è specifica, io cerco di dare anche una consulenza in tal senso, o viceversa, si ha l'idea di voler partire e si viene a cercare stimoli. Poi, certo, il libro può essere letto prima, può essere letto durante, a volte può essere letto dopo, quando un particolare viaggio ci ha entusiasmati, ha toccato delle corde nel nostro intimo e magari si vuole approfondire. Diciamo che io la raccolta che sto facendo, perché è ancora in atto, da parte di privati che stanno inviando in regalo dei volumi, ma anche case editrici, va a stimolare sicuramente l'idea del viaggio, ma a me piace anche molto pensare che possa essere un luogo dove si viene a prendere informazioni anche per altre tipologie di interessi, uno studio più approfondito su un paese o su un'etnia. Ma sì, lei dice magari uno studente che sta preparando qualcosa, una ricerca, dice vado lì perché so che trovo tante informazioni sulla Turchia, cioè tutta la sezione Turchia completa. Scusa, ad esempio sui Pelli Rossa d'America, ora certo. Volumi anche in lingua molto molto interessanti, a volte non editati in italiano, e possono essere uno strumento utile per chi studia. Verissimo, io ricordo che da ragazzino, quando si facevano le ricerche, andavo nelle agenzie di viaggi proprio a, per i cataloghi. Esatto, i dépliant da prendere, non so, dovevo fare la ricerca sul Veneto e allora ritagliavo le fotografie. E quindi mi sembra molto bello che la sostituzione, invece di avere il dépliant, che comunque era gratuito, avere dei libri che sono a loro volta gratuiti, mi sembra un modo molto però più bello. Non vanno ritagliati. Non vanno ritagliati, ovviamente, diciamo, però mi sembra molto bella come cosa. Sì, ma 30 anni fa, diciamo, il mondo era meno conosciuto, per cui un dépliant aveva anche lo scopo, in qualche maniera, a volte anche in pillole, in cifre, certo, di dare informazioni. Non c'era oggi, internet, è questa la questione. Adesso sappiamo molto di più, ecco che anche gli opuscoli sono più snelli. Però l'idea del libro è quella di andare a toccare altre note, al di là dell'aspetto conoscitivo e gli aspetti emozionali. Quindi io infatti personalmente, ancor più che il classico reportage di viaggio, sono appassionato di quei romanzi che nascono con tutt'altri scopi e finalità, raccontare storie magari, o anche un giallo se pensiamo a Simenon, che però vero, riescono a dare sì. In una struttura narrativa molto descrittiva a cogliere degli elementi che sono estremamente sensibili. Sono pienamente d'accordo, sono di solito quei libri che ti fanno venire voglia, uno legge, non so, il libro dell'inquietudine di Pessoa e sogna di vedere Lisbona. Le brume delle chiuse nelle Fiandre, nel nord della Francia, di Simenon, scrive Simenon con Maigret, quelle brasserie dove si entra, ti viene la voglia di andare a mangiare quei piatti. Verissimo, sì. Il problema è che poi arrivi nella laurea e ti viene voglia anche di assistere a un omicidio, perché per dire. Però ti senti già nella parte dell'indagatore, quindi esatto. Sei già portato a visitare meglio il paese. Ma poi con un paio di calvados passano tutte le paure. Bravo, vedo che è un abbiamo attento lettore tutto. Ed è un esperto. Grazie allora Luca Ferrari, titolare della Biblioteca del Viaggiatore. Complimenti. Chi la volesse visitare è a Chiaia, e poi riportategli i libri perché anche noi li vogliamo leggere. La viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I practiced all the things I would say. Un paese migliore è un paese in cui si va a scuola fino a 18 anni e si comincia a 3 anni, di questo parliamo tra pochissimo. Esatto, ma prima che ne parli, come avevamo promesso, do il secondo indizio per il nostro indovinello, ovvero il personaggio della settimana, ed è: ha semplificato la vita di tutti noi. Quindi il nostro personaggio che stiamo cercando e col quale rischiate di portarvi a casa due biglietti per la mostra The Erwitt al MUDEC di Milano, ha fatto una carriera pionieristica, ha semplificato la vita di tutti noi. Potete chiamare all'800 24 00 24. E adesso torniamo al tema, appunto, scuola da 3 a 18 anni. No, ma Carlo, te l'avevo chiesto io di ricordartelo, perché io rischiavo di dimenticarmene. Tu hai fatto benissimo. 824 00 24 per l'indovinello, il personaggio della settimana. Il tema invece che affrontiamo adesso è tutto legato alla scuola. Nella prossima circa mezz'ora la nostra prossima ospite è Laura Pigozzi, psicanalista, scrittrice, autrice tra l'altro in tempi recenti di Adolescenza Zero. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori, buongiorno. Allora, il tema è proprio questo: da 3 a 18 anni c'è questa così proposta innalzare l'obbligo scolastico, cambiando quello che è attualmente dai 6 ai 16 anni. Noi vorremmo parlare con lei della, diciamo, utilità coprire un così ampio, no, spettro. E al di là del fatto che sappiamo tutti che nella prima parte della scuola materna, insomma, non ci sono abbastanza posti, istituti esatto, pronti per farlo, ma diciamo in linea teorica, se ce l'avessimo, sarebbe opportuno? Non so lei cosa ne pensa di questo. Sì, penso innanzitutto che non si può dire assolutamente sì, assolutamente no, bisogna ragionarci su queste cose. E giustamente, ma io vorrei spezzare una lancia sull'entrata obbligatoria a 3 anni, perché l'asilo, tra l'altro asilo viene proprio dal greco, dal latino asylum, poi viene anche dal greco asilon, che significa proprio che è un tempio, no? È una zona franca dove non c'è il diritto di cattura. Quindi è interessante guardare l'etimologia a volte, perché ci riportano alla radice delle cose. Quindi l'asilo è una sorta di riparo. Riparo da cosa? È una tutela. Tutela da cosa? In fondo i bambini hanno diritto a giocare con gli altri bambini. Siamo in una società che produce meno bambini, lo sappiamo. Mm-hmm. Quindi anche la fratria, che era il luogo in cui diciamo un bambino faceva esperienza di negoziazione e anche di frustrazione dei propri egoismi, viene un po' a mancare, e poi comunque tra i fratelli ci possono essere anche età molto differenti. L'asilo, quindi, sul fatto di portare il bambino in un gruppo di altri bambini siamo felici, ecco, diciamo. Beh, siamo felici. Va bene. Però mi scusi, ma uno può stare con un gruppo di altri bambini senza avere l'obbligo scolastico, perché non è che i bambini che non vanno all'asilo rimangono chiusi in una scatola di cartone. Però i bambini che non vanno all'asilo spesso restano in casa con le mamme. La cosa non va tanto bene, perché per il bambino è importante che la mamma ci sia e non ci sia, che ci siano i ripieni del corpo materno. Stare troppo diciamo attaccati alla madre non fa molto bene ai bambini. Su questo ho scritto diversi libri, non sto a dilungarmi. Sì. Quindi il diritto, diciamo, del bambino è il dovere del genitore di portare i bambini all'asilo. Ci sono in certi asili, questo me lo raccontavano delle educatrici, io tengo anche molti corsi negli asili, che ci sono certe mamme che iscrivono il bambino all'asilo, ma non lo portano, perché preferiscono giocare loro con il bambino a casa. Lo portano, però si tengono il posto, lo portano solo quando devono fare delle commissioni, quindi lo lasciano lì. A quel punto il bambino non è inserito in una routine con gli altri bambini e effettivamente non sta bene in quella situazione, no? Quindi bisogna pensare anche che questo diritto del bambino è anche il dovere del genitore di sottrarsi come compagno di gioco del bambino, perché oggi diciamo una criticità della genitorialità è quella proprio di occuparsi troppo dei figli, ma occuparsene in maniera un po' invasiva, un po' invadente. Ci sono tante, c'è una scenetta che ricordo su una spiaggia di quest'estate, un bambino stava facendo un castello con la sabbia con un altro bambino, arriva il genitore e si mette a giocare lui con il castello, facendogli vedere come si faceva il castello come si veramente, fa veramente, no? certo. Ma non è importante come si fa veramente il l'importante è che importante... lo faccia il bambino. Però li abbiamo avuti tutti dei genitori così e non credo che ci abbiano traumatizzato più di tanto. La vera cosa che volevo capire, ma però è diverso, sta, le posso dire che oggi c'è stata proprio una mutazione pazzesca, perché una volta i genitori erano anche più impegnati nella loro vita. Io pensavo oggi che adesso sono più impegnati nella loro vita. Quando prima? Insomma, le mamme? Sì, diciamo che questa presenza rispetto al figlio, questo usare un po' il figlio come anche un po' come oggetto di supporto è una novità dell'epoca. C'è un po' una freccia che si è rovesciata, cioè non sono... Sì, certo, io sono di supporto a mio figlio, ma chiedo anche al figlio di essere di supporto a me. Noi abbiamo dei figli che ci dicono le cose che vogliamo sentirci dire. Questo è una vera novità dell'epoca, cioè i ragazzi sono diventati veramente mimetici e sono lì a supportarci, come se ci fosse una fragilità genitoriale che francamente non era così evidente fino a qualche tempo fa. C'è una nuova genitorialità più fragile, più narcisistica, se certo. vogliamo, e che quindi o guarda troppo il bambino o non lo guarda affatto, ma il risultato non cambia. C'è sempre la penuria e l'eccesso producono sempre quindi diciamo un disequilibrio. Avere l'asilo a 3 anni, avere la maison verte dell'adulto o le case dei bambini della Montessori, ci sono tutti esperimenti. Tra l'altro la Montessori è proprio italianissima, ha creato delle cose meravigliose per la scuola dell'infanzia, che poi io non chiamerei scuola perché proprio non è una scuola, è un asilo, cioè è un riparo, è una zona franca, è un luogo sacro dove il bambino può sperimentare, può fare, non c'è una... Senta, condizione. Però adesso la vorremmo portare sui diciottenni. Esatto, parliamo prima. Anche dei diciottenni, sì. Anche perché se no mi distrugge alcune certezze, tipo mia mamma non solo non ha fatto l'asilo, ma non ha nemmeno fatto la prima elementare, ha studiato a leggere e scrivere a casa ed è entrata direttamente in seconda. Io l'ho sempre invidiata per questo, perché credo che stare 16 anni a scuola obbligatoriamente mi sembra un po' tantino. Quindi volevo capire invece... Tua madre aveva dei genitori diversi da quelli di oggi probabilmente. Sì, poi c'era la guerra, quindi ovviamente c'erano contesti diversi. Con i figli, no? Perché oggi i genitori fanno i compiti con i figli. Io, delle persone che conosco ancora con i figli al liceo, ancora fanno i compiti con i figli al liceo. Cioè, è proprio dobbiamo pensare a quello che sta succedendo oggi, che non è quello che riguarda i nostri ricordi. I nostri ricordi sono un altro mondo. Però non mi sembra che il problema di oggi sia che ci siano troppi genitori che fanno i compiti con i figli. Diciamo che questi figli sono tutti troppo abbandonati, che stanno davanti al telefonino, e invece improvvisamente sentiamo che stanno troppo con i figli, che i genitori si prendono troppo cura dei propri figli. C'è questa forbice, ho troppa cura o abbandono, questa è la forbice, non c'è una misura, esattamente. E invece l'obbligo fino ai 18 anni come lo vede? Ma dunque, guardi, allora, intanto praticamente c'è già, perché ai 16 anni non ti prende nessuno, quindi hai comunque delle scuole di formazione della regione o di vari enti, dunque in realtà non è una grande novità. Quello che invece secondo me, due cose sarebbero veramente utili se posso lanciare questo appello. Mm-hmm. Il tempo pieno per tutti e non solo per le scuole private, perché così appunto i ragazzi fanno i compiti con i ragazzi e non con i genitori, che è la cosa migliore. Ma anche, per esempio, abbiamo questo problema del fatto che i ragazzi entrano nel mondo diciamo adulto senza sapere niente di un team di lavoro, senza sapere niente di che cos'è un'azienda o che cos'è un negozio, che cos'è un luogo dove si lavora insieme. Sì. Allora, una volta c'era la possibilità di mandare i ragazzi dai 12-13 anni a fare infatti secondo me questo è il problema del diciottenne che rimane in una scuola concepita diciamo uguale dalle scuole, chiamiamole medie, diciamo, come così capiamo tutti, in poi, non è tanto positivo. Gli dai un'altra gabbia che non è la famiglia, certo, non è la mamma, rischi. Ma gli dai un'altra gabbia, no, che è la scuola, dove lui non cresce, diciamo. Rischi di trascinare la sua incompetenza verso a un'etica del lavoro, a un gruppo di lavoro. Quindi lanciamo l'idea, per esempio, del lavoro estivo. Togliamo un po' di gabbie, di regole. Certo, la sicurezza è importante. Lavoro estivo ma mi piace essere... tantissimo. Mi piace ma tantissimo. Non può essere, la sicurezza non può essere, come dire, così, così una questione così impedimento tale, no? Quindi troviamo una forma, in America lo fanno i ragazzi, eppure noi. Allora, perché altrimenti qui per assicurare i ragazzi su ogni loro passo, finiamo per creare degli handicappati. Invece lanciamo per esempio questa idea del lavoro estivo. Quel lavoro estivo, intanto non sappiamo mai cosa fare nell'estate, ci sono i campi, eccetera, ma facciamoli lavorare, imparano un'etica del lavoro, la imparano e quindi poi quando escono hanno, perché poi i contenuti si imparano nel luogo di lavoro, non c'è una scuola veramente che ti insegni il contenuto, a meno che non siano appunto dei corsi finanziati sul territorio, da aziende del territorio, cosa che in Italia succede ed è anche una buona cosa. Ma il contenuto del lavoro si impara al lavoro. Quello che non sanno fare invece è la relazione, l'ambito relazionale, lavorare in team. Quindi si impara solo a scuola o anche nelle pause estive, lasciamoli lavorare. Sì, appunto, Carlo, so che volevi chiedere qualcosa qualcosa. No, volevo, mi sembra, mi corregga se sbaglio, mi sembra che in Italia, come tutti sappiamo, c'è una grossa differenza fra nord e sud, e stiamo parlando di una situazione del nord, quella di cui parla lei, perché se dice arrivare fino ai 18 anni, tanto bene o male succede già adesso, in realtà il 30% degli studenti noi lo perdiamo al sud, in sud Italia, e non completano nemmeno l'obbligo di arrivare ai 16, sì, sì. Quindi non direi che c'è il problema del fatto che tanto comunque tutti studino fino a 18 anni. Sì, sì. Per... Il dato nazionale su questa dispersione scolastica è del 15%, ecco. Che comunque è troppo alto anche per il nord. Appunto, quindi direi che non è che si studia, che tutti studiano comunque, perché molti vanno a lavorare perché semplicemente non hanno possibilità economiche. Quindi che il problema non è solo studiare, certo che studiare è importante, il problema è stare in un posto collettivo. Perché quello di cui non sanno nulla oggi è proprio il collettivo, non sono allenati al collettivo. Cioè, noi giocavamo per esempio per strada, è chiaro che Milano era diversa, tutto quello che vuole, però loro non sono abituati, vanno a giocare a casa dell'amico perché è magari il figlio dell'amica della mamma, cioè hanno dei luoghi talmente chiusi che noi non conoscevamo, quindi noi non ci rendiamo conto veramente. Ma in che anni si giocava per strada a Milano? Vabbè, come vuoi sapere la mia età, non gliela posso dire. No, non voglio sapere la sua età, ma siccome sono di Milano, insomma, diciamo che per strada qui è un bel po' che non giochiamo noi. Facciamo i cortili, adesso nei cortili condominiali non si può più fare nulla, no? Quindi diciamo che parliamo di cortili. Quindi, capisce? Eravamo esposti al nuovo, all'imprevisto, al bambino che non era già preselezionato dalla famiglia. Era quella la bellezza, lì si imparava tantissimo, lì si diventava anche astuti nella vita, perché eri esposto al nuovo. Adesso veramente questa questione è grave, perché invece i bambini adesso sono già preordinati, tutta la loro vita è già pensata prima. Allora, dunque, volendo, perché dobbiamo per forza salutarci, visti i tempi, però quindi all'inizio diciamo molto bene se vanno a scuola prima, dopo la scuola sì, ma con magari degli aggiustamenti sui programmi, sugli obiettivi, su come si lavora, quindi dopo una certa età non continuiamo a fare lezione frontale come hanno fatto già per 10 anni, ma cominciamo a dare degli obiettivi. Questo mi sembra di aver capito la sua opinione. Sì, ma frontale o non frontale, guardi, non è lì il vero problema. No, frontale per capire, tradizionale. È dare una fiamma, è dare una accendere la mente di questi ragazzi che dorme, una mente che dorme. Avere degli insegnanti, ne basta uno della vita, nella vita non è che debbano essere tutti così, che ti accende la passione del sapere. E è che bisogna trovarlo. A volte. Ma basta uno, basta una lezione, basta la voce di un insegnante che in quel momento sente che nella sua voce c'è un punto di verità, che lui è lì dentro in quello che sta dicendo. È già una lezione grandissima. Quindi a volte, non so se voi ripensate ai vostri insegnanti, io a volte risento la voce di uno, massimo due insegnanti che sono stati importanti per me. E allora quello è importante, quindi per esempio la scuola in cui va bene, no, io adesso però per forza devo salutarci, sì, certo, perché sono le 9.32. grazie mille Laura Pigozzi, giornata. Grazie, buona giornata, grazie. Pausa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E mi spiace interrompere, però prima o poi dovevo entrare. Vi ricordo 824 0024 per il indovinare il personaggio della settimana che ha fatto una carriera pionieristica ed ha semplificato la vita di tutti noi. Questi sono gli indizi che abbiamo dato fino a questo momento. Continuiamo a parlare di scuola, l'obbligo, certo, dai 3 ai 18 anni, so che è stato un cavallo di battaglia anche dell'ANIEF, Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori, ed è con noi Marcello Pacifico che ne è il presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Buongiorno, allora appunto sull'obbligo voi siete d'accordo, non so se vuole poi dirci anche perché, ma vi abbiamo chiamato anche per un'altra questione che diciamo così festeggiamo, perché siamo tornati a parlare di classi più piccole, ridotte, non più di 20 alunni se c'è un alunno disabile, ed è una scelta che viene finanziata con 55 milioni di euro dal governo, e quindi ben venga, no? Sì, per quanto riguarda l'obbligo formativo o obbligo scolastico, è evidente che rispetto agli ultimi numeri che collocano addirittura 22, abbiamo più di 2 milioni di net, cioè di studenti che né lavorano, né sono più studenti né lavorano tra i 15 e i 29 anni, quindi non trovano neanche lavoro, con un alto tasso di abbandono scolastico, specialmente al sud dove è al 30%, nord un po' di meno, tra oscilla tra il 15 e il 20%. Ma scusi, adesso la curiosità, perché noi abbiamo continuato a discutere prima su questa questione, l'abbandono lo fanno dopo che hanno preso il diploma a 16 anni o abbandonano senza alcun titolo di studio? Addirittura ci sono più di 11.000 casi segnalati di studenti che abbandonano già dopo la terza media, e poi ci sono quelli che abbandonano aspettando appunto i 16 anni che può avvenire nel primo o nel secondo anno delle superiori, e questo dato è strettamente legato anche al numero delle classi pollaio. Basti pensare che per fare noi le classi nei primi anni, se andiamo a vedere il numero complessivo delle classi che sono 140.000, ben 60.000, il 47% delle classi nel primo e nel secondo anno supera questi limiti che di norma impone la legge, perché la legge parla di norme, in realtà noi abbiamo classi con più di 22 alunni quasi nel 50% dei casi, addirittura il 65% dei casi nei primi due anni. Questa percentuale si riduce al 20% nell'ultimo anno, sia per via delle bocciature sia per via dell'abbandono. Questo che cosa vuol dire? Che bisogna intervenire. È un segnale del legislatore, del governo, che vuole intervenire di fatto per garantire ed estendere il più possibile questo diritto all'istruzione, specialmente in zone del paese dove non si trova lavoro, ma anche al nord la percentuale del 20% di dispersione scolastica è molto più alta di paesi come la Svezia o come la Germania. Situazione italiana quindi piuttosto pesante, no? Pensa che mettendo però questo obbligo le cose possano cambiare, nel senso che i ragazzi non vadano lì a vegetare fino a 18 anni? No, allora innanzitutto bisogna pensare che in Italia la legge che istituiva l'obbligo fino a 18 anni è del 1999, l'aveva pensato Berlinguer e poi era stata abolita nel 2000. Riportandola a 16 anni. Bisogna anche dire che nel 2015 è stata introdotta con la legge 107 quello che si chiamava, oggi ha cambiato nome, alternanza scuola-lavoro con un obbligo formativo. Allora il problema non è di stare tra i banchi, il problema è di garantire imparare questo qualcosa che può avvenire può avvenire nei corsi professionali nelle regioni, può avvenire attraverso gli stage nelle aziende, può avvenire in diversi modi. Certamente un quindicenne, un sedicenne che abbandona la scuola e sta per strada senza neanche lavorare non serve a nessuno. Mi scusi, lei sta dicendo, siccome di lavoro ce n'è molto poco, la maggior parte di quelli che smettono di studiare comunque escono e non trovano subito lavoro, tanto vale che rimangano a scuola, questo? No, sto dicendo un'altra cosa, che fino ai 18 anni non si è maggiorenni. Allora, se dobbiamo garantire, è un problema che nasce addirittura come è stata impostata la nostra Costituzione, se dobbiamo garantire il diritto di ciascun cittadino ad avere una piena formazione lungo la prima parte della propria vita, e poi stiamo lavorando a garantire questa formazione anche in progress, anche ai lavoratori che lavorano, dagli insegnanti a tutti i lavoratori delle imprese. Comunque il problema della formazione è fondamentale in un'economia che addirittura ancora oggi è globale e quindi che ti impone maggiore formazione rispetto a prima e non una riduzione per motivi economici. Ma scusi, il diritto c'è già adesso, il problema è che qui stiamo parlando di dovere. No, allora parliamo di diritti e doveri. Allora, negli ultimi 20 anni sono aumentate le classi pollaio perché è stato innalzato di un punto il rapporto alunni docenti. Addirittura nella scuola, nel primo ciclo di istruzione, nella scuola dell'infanzia e primaria, avevamo prima 3 maestri, uno specializzato per le cognizioni logico-matematiche, una per la parte linguistica e una per la parte inglese, che per motivi finanziari, per tagliare 30.000 posti, abbiamo ridotto a un solo maestro. I rapporti PIRS ci davano che quando avevamo 3 maestri i nostri studenti erano i quinti al mondo, i nostri bambini. Appena siamo ritornati al modello previgente con un solo maestro, siamo diventati 33esimi. Allora, qui professore, però è domenica, troppi numeri, troppe, no, è domenica anche per noi. Più insegnanti ci sono, più si garantisce il segmento e la parte per poter garantire maggiore formazione, maggiore la possibilità di trovare un lavoro, maggiore la possibilità di trovare lavoro in questo mondo globale. Il problema però del fatto che non ci sono sufficienti insegnanti, immagino che sia un problema economico. Giusto? È un problema che cadono i muri nelle nostre scuole e non c'è la carta igienica e non ci sono i soldi per pagare gli insegnanti. Questo è un problema che conosciamo da molto, nel senso che dirci oggi obblighiamo i giovani a stare fino ai 18 anni, quale di questi problemi risolve tra muri, carta igienica e stipendi per gli insegnanti? Sicuramente garantisce un'opportunità in più di maggiore momento formativo che inteso nel senso lato del genere, non solo di didattica frontale, ma anche di esperienza nel rapporto tra scuole e territorio, tra scuole e aziende, è sicuramente un momento in più e una possibilità in più che viene data a uno studente rispetto a prima. Certo. Allora, rispostiamoci sulla questione per la quale ci siamo sentiti, che poi è strettamente collegata, come lei ci diceva, le classi pollaio poi hanno degli effetti anche sulla formazione degli studenti. Questi milioni che a quanto insomma sembra verranno spesi per evitare queste classi pollaio, dove devono essere spesi in particolare, come devono essere spesi per evitare, no, che questo accada e che ci sia la giusta assistenza ai ragazzi con difficoltà? Allora, innanzitutto bisogna segnalare che questi soldi sono insufficienti se dovessimo rispondere al problema nella sua interezza, perché con 50 milioni ipotizzando di dover, laddove abbiamo fatto le analisi di tutte queste classi che sono superiori alla norma, che dice 22 alunni e in caso di alunno con disabilità grave 20 alunni. Allora, se dovessimo fare tutta questa percezione potremmo avere un 800 probabilmente classi nuove a fronte di 15.000 classi nuove che servirebbero. Quindi è un segnale. 800? Il secondo numero era 15.000? Sì, su 15.000 nelle sole scuole superiori, perché la norma per ora riguarda solo la scuola secondaria, dove tra l'altro il fenomeno, come vi dicevo prima, è più forte, più evidente, addirittura in misura tripla, nel primo biennio dove c'è ancora l'obbligo formativo, perché poi il fenomeno decresce fino all'ultimo anno delle superiori. Quindi di fatto questi soldi ovviamente non bastano, servirebbero, abbiamo calcolato 1 miliardo. Purtroppo la norma cosa dice? La norma dice di norma le classi si formano con 22 alunni, quando in realtà poi i presidi, i provveditori, i direttori degli uffici scolastici regionali hanno un ordine da parte del Ministero di non aumentare gli organici, fanno le classi con gli organici e con i numeri che hanno, quindi a volte con alunni di 30, con classi con 30, 32, 33 certo, alunni, capito, con sì, 3 sì. alunni con disabilità, ma... perché noi, o non hanno i locali o comunque hanno un ordine di non incrementare gli organici. Ora questa norma per la prima volta va a dire una cosa inversa, nelle scuole secondarie cominciamo a vedere dove sono i casi più gravi e cominciamo, perché con 50 milioni non si risolve il problema, evidentemente ora c'è il DEF, noi abbiamo un ministro Fioramonti che si era dimesso perché chiedeva 3-4 miliardi, noi chiediamo a questo governo in questo DEF, ora purtroppo c'è pure il problema del coronavirus e quindi di danni. Beh, insomma, i problemi ce ne sono tanti, non è che voglio dire, non è che improvvisamente si può trovare questo miliardo. Ma le volevo chiedere su questa questione delle classi più piccole, che mi sembra che la preoccupi moltissimo, che sia la questione di dire ci sono troppe classi troppo grandi. Quanto è grave avere delle classi un po' più grandi? Perché arrivano anche messaggi di persone che ci dicono: in Giappone le classi sono da 40, nessuno le chiama classi pollaio, fanno lezioni molto tranquillamente, non c'è nessun forse problema. Forse c'è un numero di quindi, insegnanti. Vorrei capire quanto è grave questo, queste classi grandi. Allora, evidentemente, allora, da laddove noi abbiamo più possibilità, più tempo nella didattica per interagire con lo studente, con gli insegnanti, abbiamo più possibilità di andare a intervenire su quella didattica individualizzata. Noi dobbiamo sempre partire dagli apprendimenti degli alunni e quindi noi più sono gli insegnanti o più tempo hanno gli insegnanti nei confronti degli alunni, specialmente laddove c'è il maggior bisogno, e allora lì è il maggior bisogno, per esempio, evidente quando si ha un alunno con un handicap certificato grave, e allora maggiore si può fare questa interazione, perché è vero che l'alunno con handicap grave ha un insegnante di sostegno, ma è anche vero che l'alunno è della classe, quindi è anche dell'insegnante curricolare, l'insegnante di sostegno coadiuva l'insegnante nella classe in una programmazione particolare per individualizzata e con un piano individualizzato per l'alunno. Allora, ci dobbiamo salutare, grazie Marcello Pacifico, presidente di ANIEF, che è l'Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori. Abbiamo adesso la viabilità e rientriamo perché c'è un concorrente per l'indovinello. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno Sara dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, buongiorno. Chi è che ha fatto la carriera pionieristica e semplificato la nostra vita, secondo lei? A me l'ha semplificata tantissimo perché uso il suo comando, penso almeno 5-6 volte al giorno, Larry Tesler, l'informatico americano che ha inventato il taglia, copia e incolla, secondo me. Ah, Ctrl C, Ctrl V, lui. E Ctrl X anche. E anche Ctrl X, certo, oppure Mela X, Mela, perché a seconda di chi, a seconda di che computer di uno ha. Esatto. Sentiamo un po' allora. Ed è così. Complimenti, è entrata grazie. Veramente molto sicura, è parente di qualcuno, conosce qualcuno qua a Radio 24? No, assolutamente no, perché vi ascolto da quando è nata la radio, ho provato tante volte a chiamare, questa volta è andata bene, poi devo dire che effettivamente Tesler a me dal punto di vista lavorativo e anche passione, utilizzo del computer, ha semplificato davvero la vita. Verissimo. Perché quel comando è straordinario. Sì, sì. È straordinario. Allora, ha vinto i due biglietti per grazie. Il MUDEC, la ringraziamo moltissimo anche per la sua fedeltà alla radio e alla prossima. Alla prossima, grazie. Sara, grazie. Buona domenica. Buona giornata e buon lavoro. Arrivederci. Premio L'altro pianeta. E corriamo verso il premio L'altro pianeta, l'ultimo appuntamento di questa puntata, per il quale ci ha raggiunto telefonicamente, ma se un giorno vorrà ci farà piacere anche ospitarlo, Maurizio Fusato, che è il direttore di stabilimento di Feralpi Siderurgica. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, vedo Carlo strabuzzare gli occhi, dici che cosa ci sarà mai in uno stabilimento siderurgico che premiamo con il premio L'altro pianeta? Beh, un percorso, diciamo, lungo di lavoro che ha portato questo stabilimento a poter sostituire, diciamo così, il carbone. Con che cosa, ingegnere? Ma sostanzialmente l'idea è quella di sostituire appunto il carbone che utilizziamo nel processo con dei polimeri che vengono però da plastiche di recupero, per cui sostanzialmente non andiamo più a utilizzare fonti non rinnovabili come il carbone e andiamo a utilizzare invece un prodotto, un materiale che altrimenti avrebbe pochi altri utilizzi. Sarebbe destinato all'incenerimento, immagino? L'incenerimento o altre attività, diciamo, di recupero della plastica, ma non sempre è possibile farlo. Questo è un utilizzo intelligente perché va a utilizzare alcuni tipi di plastiche che hanno più difficoltà ad essere recuperate in altri processi e nello stesso tempo è importante perché si parla di volumi molto importanti, perché nei processi siderurgici i volumi sono molto molto alti. Noi consumiamo circa 5.000 tonnellate di carbone tutti gli anni, per cui il poter utilizzare questo polimero al posto del carbone ha anche una valenza, insomma, quantitativa importante. Allora, con chi avete fatto questa elaborazione? Perché è un percorso che Feralpi non ha ovviamente fatto da sola, partner, diciamo, no? Uno è Coreplas, so, chiaramente, per questioni di plastiche, e poi altri che hanno sviluppato questa tecnologia che è dietro a questo raggiungimento di cui ci ha appena parlato. Sì, diciamo che appunto i nostri partner principali sono stati nell'ultimo periodo in particolare iBlu, che è una società che appunto in collaborazione con Corepla raccoglie e poi soprattutto studia il processo per produrre questi polimeri. Abbiamo fatto un investimento, diciamo, sia noi che loro, e anche Euromec, che invece è una società di Bergamo che fa impianti, perché la particolarità di questo progetto è che uno non può sostituire il carbone con la plastica senza andare a intervenire sulla parte impiantistica, per cui è stato fatto anche da loro uno sforzo economico per la produzione di un impianto pilota che fosse adatto per la manipolazione e l'estrazione. Mi perdoni, non avete avuto finanziamenti europei per questo? No. No, fino ad ora no, nel senso che abbiamo fatto una serie di sperimentazioni, ci abbiamo creduto e abbiamo voluto investire in prima persona sia noi che i nostri partner appunto nella produzione di questo impianto pilota. In parallelo abbiamo presentato anche un progetto invece per portare poi questo progetto su scala industriale e proprio poche settimane fa abbiamo saputo che il progetto è stato approvato, per cui in futuro, nei prossimi 2 anni, metteremo a punto ancora meglio sia il prodotto che il processo e verrà finanziata una parte dell'impianto invece su scala industriale che andremo a installare. Benissimo, allora mi sembra tutto molto bello. In futuro ovviamente questa tecnologia potrà essere utilizzata, no? Da altri? Sì, assolutamente, perché appunto il progetto anche di cui abbiamo ottenuto un finanziamento ovviamente sarà poi pubblico, per cui tutti i dati saranno pubblici e anche altre acciaierie come la nostra potranno sfruttare questa innovazione che porta, ci tengo a dirlo, ecco, grossi benefici ambientali, come abbiamo detto, sia sul consumo di risorse non rinnovabili, anche sulle emissioni. Ecco, infatti, sulle emissioni, esatto, siamo pari, esatto. mi sembra di aver visto nelle schede. No, ma faccia conto che in realtà è meglio, sì, perché il polimero ha una composizione chimica diversa dal carbone, con minori contenuti di carbonio, poi ha una buona parte di idrogeno, e tutte queste caratteristiche in realtà lo rendono ancora migliore. Cioè, noi facendo queste sperimentazioni abbiamo visto, anche con un po' di sorpresa, devo dire, che questo prodotto qua non solo può sostituire il carbone, ma lo fa anche meglio. E quindi facendolo meglio migliora il processo, migliora la produttività, e a livello anche di emissioni di CO2 abbiamo fatto una stima di risparmiare circa 3.000-4.000 tonnellate di CO2 sulle emissioni in atmosfera. Senta, c'è un ascoltatore che scrive subito: ma bruciare la plastica non produce gas tossici? No, allora... Beh, è la stessa domanda che avrei fatto io, perché sono lo stupido dei due, ma è la stessa domanda che avrei fatto io, perché sarà che ci hanno insegnato fin da piccoli, la plastica, non la bruciare, la plastica che fa gas tossici. Certo, no, la domanda non è stupida, è ovviamente è stata una preoccupazione, un punto di attenzione per noi nel progetto, e tutte le volte che abbiamo fatto queste sperimentazioni abbiamo coinvolto ente di controllo, e soprattutto abbiamo fatto delle campagne mirate di analisi al camino. Non lo produce sostanzialmente, perché in realtà non è un bruciare la plastica, ecco. In realtà il polimero, cioè questo polimero che deriva dalla plastica, viene insufflato sotto il bagno di acciaio ed ha un'azione riducente, per cui è vero che c'è anche una combinazione del carbonio con l'ossigeno, ma in realtà non è un puro bruciarlo, ma è una cosa diversa. Noi sfruttiamo il carbonio all'interno della plastica per andare a utilizzarlo all'interno del processo produttivo. Sono molto contento che lei abbia studiato, perché io ovviamente è stato troppo complicato. Poi domenica, come dicevo anche prima, insomma, vabbè, è troppo difficile. Comunque possiamo rassicurare sul fatto che non viene... Io sono rassicurato totalmente. C'è nessuna... Noi abbiamo, come diciamo, noi abbiamo degli impianti di abbattimento e di controllo, soprattutto sulle emissioni, che sono veramente impressionanti. Magari un giorno, se ci sarà l'occasione, sarà interessante raccontarli, perché abbiamo delle emissioni che sono circa 50 volte sotto i limiti di legge, che sono già molto molto molto restrittivi, e abbiamo visto che sostituendo questo prodotto con il carbone, con questo prodotto, non c'è nessun peggioramento della situazione da quel punto di vista. Senta, l'ultimo aspetto è quello economico: da una parte non usare il carbone, che tra l'altro continua a crescere di prezzo, visto appunto il bando che c'è, vi risparmia insomma del denaro, c'è anche un vantaggio economico, mi pare di capire, in tutta questa vicenda. Sì, questo è un po' il bello, secondo me lo straordinario di questi progetti di economia circolare, che ci è capitato anche altre volte su altri progetti. Il bello è che non solo, ecco, si ottiene un grosso vantaggio ambientale, ma si ottiene anche un vantaggio di competitività per l'azienda, per cui sono progetti che poi aiutano l'azienda a stare in piedi e a stare in piedi sul mercato sempre in maniera sempre più competitiva. Abbiamo visto ad esempio che questo prodotto, al di là del fatto che costa di meno del carbone, ha appunto un miglioramento sul processo, per cui in realtà andremo a diminuire anche i consumi elettrici noi del nostro processo, e andremo anche ad aumentare la resa del rottame. Noi facciamo l'acciaio tramite il rottame, quindi con questo prodotto riusciamo a migliorare anche la resa del rottame, per cui grossi vantaggi economici che ci ripagheranno, ecco, dello sforzo e di aver creduto in questo progetto. Molto bene, se ne parla ancora a Connext a Milano nel corso della settimana. Intanto ringraziamo Maurizio Fusato, direttore di stabilimento di Feralpi Siderurgica. Buon lavoro, buon tutto. Grazie. Buona domenica. Carlo, è il momento di salutarci, tra l'altro. Sì, inizia il nostro weekend. Inizia il nostro weekend, che inizia la domenica alle 10, visto? Esattamente. C'è gente che ha iniziato venerdì, vabbè, comunque. Vabbè, però il mio finisce anche venerdì notte, quindi insomma, questo è anche vero. Allora, in redazione Danilo Ditrani, Andrea Piana, Edoardo Lavezzari, oggi in assistenza c'è Miriam Lucchetti, in regia c'è Carmelo Lauricella. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto. E da Carlo Gabardini una buona domenica e a sabato prossimo.